2024. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:30. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 at radio24.it, ci trovate anche su Facebook e su Twitter. La prossima settimana ci sarà il Mobile World Congress a Barcellona e la prossima settimana vedremo se la più importante fiera al mondo per il settore della mobilità ci offrirà novità interessanti. La prima è già stata annunciata dalla GSMA, che è l'associazione industriale che raccoglie tutti i produttori di apparati mobili, quindi non solo smartphone, non solo telefonini, ma tutti quelli che gravitano attorno a questa industria, ad esempio anche gli operatori di telefonia mobile. Allora, la GSMA ha rilasciato le specifiche della eSIM, che è di fatto un chip da inserire in un dispositivo come uno smartphone, uno smartwatch o qualsiasi altra cosa vogliamo collegare ad internet, che di fatto sostituisce la SIM. È una SIM integrata che si programma via software. Queste sono specifiche standard supportate dall'industria, quindi ufficiali della GSMA Association, ci sono altre soluzioni, ad esempio la più nota è la Apple SIM, che è una soluzione proprietaria che è già stata utilizzata in un caso da Apple. Allora, quali sono i vantaggi di questa novità che è destinata a rivoluzionare questo settore? Nel giro di pochi anni non avremo più le SIM che andiamo ad acquistare in un negozio e inseriamo nello smartphone e togliamo, rimettiamo quando cambiamo telefono oppure quando vogliamo cambiare profilo tariffario. Allora, è un oggetto che nasce integrato, quindi un apparecchio che nasce con questa eSIM può essere connesso molto velocemente, quindi non devo andare ad acquistare la SIM. Soprattutto posso ad esempio gestire più connessioni contemporanee e più profili tariffari, quindi spariranno i telefoni multi-SIM. C'è già un prodotto che è stato annunciato con questa eSIM integrata, sarà la nuova versione del Gear S2 di Samsung, di lo smartwatch, mentre i primi smartphone con questo nuovo prodotto sono attesi per giugno e sicuramente verranno annunciati alcuni al Mobile World Congress. A proposito di telefonia mobile, per il momento abbiamo anche una serie di dati molto interessanti che sono stati pubblicati pochi giorni fa da Gartner, che ogni trimestre fa la classifica delle vendite degli smartphone per tutto il mondo. Allora, in questa occasione è stato fatto anche il consuntivo 2015, quindi il dato è ancora più interessante. In tutto il 2015 sono stati venduti 1 miliardo e 400 milioni di smartphone, con un aumento del 14,4% rispetto al 2014. Quindi stiamo parlando ancora di un prodotto vendutissimo in tutto il mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, e stiamo parlando di una dimensione del mercato incredibile, 1 miliardo e 400 milioni di unità. Però c'è da rilevare un rallentamento, perché nell'ultimo trimestre dell'anno 2015 è stato registrato un incremento percentuale rispetto allo stesso trimestre del 2014 del 9,7%, che però è il tasso più basso di crescita dal 2008, quindi c'è un po' di rallentamento sul mercato. Allora, come stanno le cose su questo gigantesco mercato per quanto riguarda i produttori? Il primo produttore rimane Samsung, che perde un po' di quote di mercato, dal 24,7 passa al 22,5, comunque mantiene una quota di mercato piuttosto importante. Il secondo produttore di smartphone al mondo è Apple, che ha una quota che cresce leggermente, ma insomma sostanzialmente stabile, anche se in questo caso stiamo parlando di milioni di telefoni in più, siamo al 15,9%. Huawei è salita alla terza posizione, superando Lenovo, e al 7,3%. Lenovo è scivolata un pochettino al 5,1%. Il quinto produttore di questa classifica è Xiaomi, cinese anch'essa, con il 4,6%. Quindi abbiamo un'azienda coreana abbiamo un'azienda americana e poi abbiamo tre aziende cinesi che crescono, tranne Lenovo che perde un po' di quota di mercato. Xiaomi è sostanzialmente stabile. Poi c'è un mercato che è molto frammentato, perché nell'altra posizione, che viene definita Others, quindi gli altri, sono il 44,6% del mercato, quasi tutti con Android. Android è il sistema operativo principale, sono stati venduti più di 325 milioni di telefoni Android, l'80,7% del mercato, in crescita dal 76%. iOS nell'ultima parte, perché questi sono dati che riguardano solo l'ultima parte dell'anno, è al 17,7% dal 20,4%. Windows scivola e ormai è quasi inesistente all'1,1%. BlackBerry è allo 0,2% e Others, cioè gli altri che probabilmente usano o sistemi operativi proprietari, come potrebbe essere il sistema che utilizza Samsung, Tizen, oppure altri sistemi operativi, però sono praticamente inesistenti, 0,2%. Quindi comunque il mercato lo fanno Android 80,7%, iOS quasi 18%. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana che abbiamo raccolto nelle nostre Digital News. Digital News. Il mercato italiano dei prodotti elettronici è trainato, anche il mercato italiano, dagli smartphone. Allora, i dati GfK, che è la principale società che descrive l'andamento dei mercati dell'elettronica di consumo, ci dicono che il mercato è in crescita del 3,2% nel 2015 a quota 18,3 miliardi. Di questi, oltre 6,3 miliardi vanno alla telefonia mobile, quindi non solo smartphone ma anche accessori, in crescita del 15%. Crescono anche i piccoli e grandi elettrodomestici, che valgono insieme oltre il 4 miliardi, mentre i prodotti audio, video e PC calano del 5,7%. Assieme agli smartphone cresce anche la vendita dei prodotti indossabili. In questo caso stiamo parlando di percentuali di quote che riguardano il valore dei prodotti e non il numero dei prodotti. Secondo il Financial Times, Spotify sta per toccare quota 30 milioni di abbonati rispetto ai 20 milioni dello scorso giugno e non ha dunque risentito del lancio di Apple Music, che comunque cresce e in 6 mesi ha raggiunto 10 milioni di abbonati. Oggi lo streaming è la principale modalità di consumo di musica digitale, anche se nessuna delle piattaforme è in grado ancora di generare utili. La negoziazione dei diritti è ancora troppo onerosa rispetto ai ricavi, ma visto che questo mercato cresce, fra poco si raggiungerà l'equilibrio. Da questa settimana possono essere registrati i nomi a dominio.cloud, quindi se io facessi servizi cloud, lo posso fare in generale, ma forse è più logico che lo faccia, che lo registri un dominio del genere, chi fa servizi cloud, potrei ad esempio registrare enricopagliarini.cloud. La società che gestisce il punto cloud è l'italiana Aruba, che ha vinto una gara internazionale a novembre 2014. Tuttavia, questi domini possono essere registrati anche su altri siti specializzati. Dal prossimo maggio Google disattiverà il servizio di archiviazione foto Picasa, molto famoso, e tutti i contenuti verranno migrati su Google Foto, uno dei tanti servizi che scompare, in attesa che Google spenga anche Google Plus, che non pare funzionare tantissimo di fronte alla strapotenza di Facebook, però per il momento viene mantenuto. La versione aggiornata di Skype per iOS e Android consente di fare videochiamate di gruppo fino a 25 utenti contemporanei. Anche altri sistemi di messaggistica consumer permettono di fare videoconferenze fra più utenti, ma sicuramente Skype è fra quelle che permettono il maggior numero di utenti, se non proprio quella che permette il maggior numero di utenti. In questa puntata di 2024 parleremo di biciclette, perché sta succedendo di tutto nel mondo delle biciclette, dalla propulsione elettrica alla sensoristica, alla connettività, e parleremo anche di elettrodomestici che si possono connettere allo smartphone e alla rete. Prima però alcune considerazioni sul caso che contrappone Apple all'FBI. Avrete letto, e anzi vi invito a leggere su internet, soprattutto dai media americani direttamente dalla fonte, che cosa sta succedendo. Comunque, in estrema sintesi, allora, Tim Cook, che è il grande capo di Apple, ha scritto un messaggio ai consumatori, ma di fatto si è rivolto al governo di Washington e al giudice che ha ordinato all'azienda di collaborare con l'FBI per sbloccare l'iPhone di un terrorista. Si tratta dello smartphone di uno dei responsabili dell'attacco di San Bernardino in California, dove all'inizio di dicembre vennero uccise 14 persone. Allora, dopo aver tentato invano di forzare il PIN di protezione del telefono, l'FBI vorrebbe a questo punto che fosse Apple ad aiutare gli investigatori per eliminare la protezione che cancella tutti i dati se viene inserito un PIN sbagliato 10 volte. In questo modo l'FBI potrebbe provare all'infinito le password per indovinare quella giusta, per poi entrare nel telefono e vedere tutto quello che è archiviato, foto, messaggi e altro tipo di documenti. Allora, Cook scrive che Apple non può aiutare la polizia perché al momento non possiede quello che viene chiesto, e per ottemperare alle richieste del giudice questo significherebbe creare una nuova versione di iOS con una backdoor, cioè creare un sistema in grado di bypassare la sicurezza dell'iPhone. Secondo Cook, secondo la Apple, creerebbe un pericoloso precedente e potrebbe mettere a rischio le informazioni dei proprietari dell'iPhone in tutto il mondo se questo tipo di software finisse nelle mani sbagliate. Sarebbe, scrive Apple, come chiedere di realizzare un passepartout, una chiave speciale per aprire qualsiasi porta, la porta di una banca, la porta di un ufficio, col rischio che questa chiave, magari fatta per la polizia, finisca poi nelle mani dei ladri. Ma devo dire che il paragone con il mondo analogico funziona fino ad un certo punto, perché le dinamiche sono completamente diverse. Scrive e conclude la lettera di Tim Cook: seppur convinti della bontà delle intenzioni dell'FBI, riteniamo sbagliato che il governo ci imponga di creare una backdoor nei nostri prodotti mobile, perché temiamo giustamente che tale richiesta vada a minacciare quelle stesse libertà che il nostro governo ha il compito e il dovere di proteggere. Allora, non è la prima volta che Tim Cook interviene su questo tema, è un tema di cui negli Stati Uniti in modo particolare si discute da moltissimo tempo, se non anni, sicuramente molti mesi, ma direi alcuni anni. Il dibattito è soprattutto tra il governo, le forze di polizia, l'FBI in modo particolare, perché questo va sottolineato, e le aziende della Silicon Valley. Io sono d'accordo con tutti quelli che hanno preso le difese della Silicon Valley, che dicono in linea di principio quello che dice Apple è corretto e va mantenuta questa situazione. Ne abbiamo parlato con Corrado Giustozzi, che è un esperto di crittografia, un esperto di sicurezza. Perché Apple ha ragione? E tutti quelli che, e sono molti, direi tutti gli esperti di tecnologia, dicono che ha ragione. È un po' quello che succede con il controllo delle armi. In alcune nazioni il governo ha un controllo forte sulle armi perché altrimenti la criminalità potrebbe essere armata. La risposta di chi pensa che questa sia una misura inutile è la criminalità si arma comunque e sono soltanto, diciamo, i cittadini invece che avrebbero diritto di difendersi a non poter avere questo diritto. In questo caso è il bilanciamento fra il diritto del governo a effettuare intrusioni autorizzate nella vita privata dei cittadini, cosa che ovviamente è lecita, e il diritto dei cittadini a difendersi, ma ora c'è di mezzo un terzo, un'azienda che è chiamata in qualche modo a collaborare forzosamente col governo, e l'azienda in qualche modo si rifiuta per vari motivi: uno, per motivi etici, ammesso che un'azienda abbia valori etici; due, forse per motivi commerciali, perché se l'azienda accettasse le richieste del governo probabilmente perderebbe tutta una fetta di clienti che non si sentono più tutelati. In realtà Apple dice: la protezione che io ho messo è molto forte, io non ne ho le chiavi e non le voglio avere perché non sono il custode dei dati dei miei clienti, e quindi è un problema tra governo e cittadino, vedetevela voi, non ne voglio sapere nulla. Beh, proprio qui sta il punto: ordinare ad Apple di fare una backdoor metterebbe a rischio tutti gli iPhone del mondo, e questo vale anche per altre aziende, varrebbe anche per Google, perché poi passato quel principio altre aziende dovrebbero poi adeguarsi. Invece se l'FBI agisse da solo, un po' come se si trovasse di fronte ad una cassaforte e dovesse bucare quella sola cassaforte senza farsi fare una chiave che apre tutte le cassaforti, e molti si domandano: ma perché l'FBI non riesce a fare tutto ciò? Allora, secondo John McAfee, che è l'eccentrico fondatore, diciamo così, eccentrico fondatore della McAfee, che poi è stata venduta alla Intel, ma è comunque uno che bazzica ancora, fa un sacco di cose strane, è anche candidato alla presidenza degli Stati Uniti, ma bazzica ancora e molto nel mondo della security, dice: l'FBI potrebbe tranquillamente bucare quel telefono se solo avesse il coraggio di assumere dei tizi strani che hanno la cresta sulla testa, che hanno il piercing, che si fanno i tatuaggi, che vogliono $500,000 all'anno perché sono bravissimi, sono eccezionali, e noi negli Stati Uniti abbiamo tutte queste competenze. Allora vi offro gratuitamente la nostra collaborazione, io e il mio team ci mettiamo a disposizione e vi garantiamo che in 3 settimane riusciamo a bucare quel telefono. Vedremo poi come andrà a finire, però a parte questa simpatica proposta di John McAfee, c'è chi dice che appunto ci possono essere le tecnologie per far tutto ciò. Faccio notare a tal proposito che in questo dibattito è assente la NSA, cioè una delle più potenti agenzie di intelligence nel mondo, e io penso, come in molti altri pensano, e mi pare strano che nessuno abbia citato la National Security Agency in questi giorni, la NSA io penso abbia le tecnologie per bucare qualsiasi sistema, compreso questo iPhone. Sicuramente l'FBI non ha il budget della NSA e quindi tenta di farsi dare la tecnologia necessaria per entrare nell'iPhone tramite il giudice, direttamente dall'Apple. Non si può nemmeno escludere l'ipotesi che in realtà le aziende di tecnologia della Silicon Valley collaborino in segreto con l'FBI, mentre molto del dibattito al quale noi assistiamo sia un dibattito di facciata. Concludo dicendo che il problema è molto serio, è molto importante, e anche questo caso ci pone di fronte all'esigenza di aggiornare alle nuove tecnologie, a questo nuovo mondo che stiamo costruendo con la tecnologia, regole e principi che si applicavano al mondo fisico e analogico. E in particolare, visto che questo dibattito tocca l'equilibrio fra il diritto alla privacy e la sicurezza, la discussione è relativa anche ai diritti umani, quindi bisogna creare un nuovo, chiamiamolo framework, un nuovo sistema di regole. Adesso cambiamo argomento, parliamo di biciclette, perché anche il mondo delle biciclette sta entrando nella Internet of Things. Anche le biciclette sono oggetti che si connettono alla rete internet, e tra propulsione elettrica, sensoristica e connettività il mondo della bicicletta sta cambiando moltissimo. Saluto i nostri ospiti, Giovanni Alli, uno dei fondatori di Zehus, scritto con la H in mezzo, Zehus, benvenuto. Grazie mille per l'invito. Qui a fianco a noi c'è anche Luca Sacchi, che è il responsabile dell'innovazione strategica di Piaggio, benvenuto. Grazie. E tu sei anche responsabile di un progetto che si chiama Y-Bike. Sì, che è la, potremmo dire, la bici della Piaggio. È un progetto di cui parleremo in questa trasmissione. Sì, racconteremo alcune cose perché rappresenta molto bene quello che sta succedendo nel mondo della bicicletta: propulsione e sensoristica. Per noi rappresenta, ovvio che come Piaggio rappresenta anche qualcosa di più. Diciamo che è il primo passo verso dei, insomma, cercando di capire e anche applicarsi verso dei cambiamenti della mobilità in generale, dati da ragioni normative, sociali, tecnologiche, e la bici che abbiamo fatto è proprio in quella direzione. Non è soltanto per noi una bici, ma in qualche modo un oggetto che rappresenta, sì, gli intenti. Sì, tra l'altro è anche molto bella, l'aspetto del design non è da sottovalutare, perché molti dei nostri ascoltatori avranno visto anche da qualche anno biciclette elettriche, ma spesso, soprattutto le prime, erano molto brutte. Devo dire che negli ultimi anni ho visto parecchie start-up attorno al mondo della bicicletta, e ci sono vari progetti sia di design ma anche molto tecnologici. Giovanni, Zehus è una start-up ancora? Siete attivi già da qualche anno? Sì, siamo attivi da aprile 2013 e abbiamo lanciato il nostro prodotto lanciato il primo prodotto sul mercato nel 2014 a giugno. Noi però siamo un'azienda che vende solo ai produttori di biciclette. Sì, però le biciclette con il vostro, che lo possiamo chiamare motore? Sì, il nostro sistema che è un motore integrato con batteria, motore, sensoristica, tutto all'interno del mozzo posteriore, le biciclette con questo sistema sono già sul mercato dell'utente finale. Allora, per chi non è esperto del settore, come me, diciamo che il mondo della propulsione elettrica per le biciclette si divide, io lo divido in due per semplicità, il motore che è nel mozzo, quindi all'interno della ruota, tecnologia molto affascinante perché uno dice ma come, lì dentro c'è tutto motore, batteria, e invece il motore che ci assiste nella pedalata. Questi sono i due mondi sostanzialmente. Sì, diciamo che i mondi sono, vabbè, sotto ci sono tanti altri, sì, però, per però farla semplice, si può dividere il sistema in un sistema distribuito, come ad esempio quello che è stato utilizzato da Piaggio, e un sistema invece concentrato in un singolo componente, ovvero l'in-one. Che cosa fa questo vostro motore? Spinge la bicicletta. Il nostro motore spinge la bicicletta secondo la norma della pedalata assistita, quindi non più di 25 km orari, e comunque il ciclista deve pedalare. Non solo, ha una sensoristica molto smart che capisce quando il nostro corpo cala di efficienza e ci aiuta col motore, mentre invece quando il nostro corpo è molto efficiente ci ruba un pochettino di energia quasi senza che noi la sentiamo, come una specie di dinamo molto intelligente, e ci porta ad avere un bilanciamento energetico che non ha bisogno di ricaricare la batteria. Questo è un sistema che naturalmente non ci fa fare zero fatica come una bicicletta pedalata assistita, che ci toglie molto della fatica, ma ci toglie fino al 40% di fatica in area urbana o in area collinare. Sì, le batterie che ci sono all'interno si ricaricano da sole o le devo ricaricare io? Le batterie che ci sono all'interno si ricaricano durante la mia pedalata, durante la discesa, durante la frenata, cioè nelle fasi in cui non spinge, però noi abbiamo previsto anche un connettore per la ricarica, e questo perché sicuramente una parte interessante è l'algoritmica che abbiamo messo dietro noi arrivando dal Politecnico, quindi la tecnologia. Il tecnico di Milano, ricordiamo. Di Milano, quindi la tecnologia. Un altro aspetto molto interessante è il design molto compatto, che rende comunque una bicicletta dotata del nostro sistema una bicicletta elettrica leggera. Quindi noi abbiamo un sistema che si può comandare dallo smartphone, e uno può cambiare le modalità di funzionamento e può anche decidere di utilizzarla in modalità bicicletta pedalata assistita, sì, standard. Poi quindi, allo smartphone e ai sensori ci arriviamo. Sì. Luca, invece la vostra è una bicicletta, possiamo dire, un po' più tradizionale nel mondo della pedalata assistita? No, nel senso che mi permetto di dire che la parola tradizionale non va usata. No, ma non per quello, perché il concetto del motori al mozzo, così come nei motori al mozzo, come appunto hanno quelli Zeiss, oppure dove ci sono i pedali, per essere molto banali, come abbiamo noi, sono due strade differenti che fanno cose diverse, quindi sono scelte tecniche che assolvono compiti leggermente diversi, e sono entrambi, hanno un'età anche loro, insomma non sono nuovi né uno né l'altro, ma è come l'abbiamo affrontati, qui mi metto sempre quello di Zeiss, l'abbiamo affrontato in maniera molto diversa e moderna, ed è quello, cioè il concetto del motore nel mozzo ha il vantaggio di gestire il rapporto tra la pedalata della persona e l'energia generata dal motore in maniera estremamente sofisticata, perché è chiaro può avere dei dinamometri interni al motore, e rileva ovviamente perfettamente quanto sforzo sto mettendo sul pedale. Quindi è un rapporto tra motore elettrico e persona, che però ha la stessa logica, cioè la persona deve sempre pedalare, comunque la potenza è sempre di 250 watt, è sempre 25 all'ora come contribuzione, velocità massima di contribuzione, quindi ha gli stessi parametri. Se si provano le due bici fanno cose diverse, e secondo me hanno destini diversi. Il grosso del mercato è quello che abbiamo occupato noi, quindi come grossa azienda siamo andati verso a cercare di sfidare laddove c'era una maggior complessità, ma proprio anche per ragioni strutturali della nostra azienda e dell'industria. Adesso per noi c'è una breve pausa, siete all'ascolto di Radio 24, questo è 2024, a tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Stiamo parlando di biciclette che si connettono anche allo smartphone e anche a internet, e tra poco parleremo di elettrodomestici che si connettono alla rete internet. È con noi Giovanni Alli, uno dei fondatori di Zehus, una startup che ha fatto un mozzo da inserire in una ruota di una bicicletta che di fatto contiene motore, batterie e una serie di sensori. E tra poco, Giovanni, vorrei chiederti che cosa c'ha di altro. Ed è con noi anche Luca Sacchi, che è il responsabile dell'innovazione strategica all'interno di Piaggio. Piaggio che è uscito sul mercato con una bicicletta elettrica completa, con un motore elettrico, con sensori, con connettività, e tra poco ne parleremo. Giovanni, Zehus ha fatto questo mozzo, che è un motore con le batterie, che cos'altro ha all'interno? Allora, all'interno ha un dispositivo Bluetooth che permette la connessione con lo smartphone. Questo permette la connessione dell'oggetto in cloud. Perché non abbiamo inserito un dispositivo direttamente di connessione globale lì dentro, ma il motivo è una SIM dati con un GPS. I motivi sono due principalmente. Il primo è l'energy saving, quindi stressiamo molto la nostra tecnologia perché riesce a ricaricare la batteria. Se noi la lasciamo 2 giorni che con un cellulare dentro acceso, la batteria un pochettino si scaricherà. Il secondo è che ad oggi noi viviamo con uno smartphone in tasca, quindi secondo noi il gateway perfetto tra un oggetto di questi e la rete, il cloud, può essere lo smartphone che abbiamo in tasca. Questo genera interesse anche in tantissimi altri campi, non solo in quello della bicicletta. Certo. Usare lo smartphone da gateway. Si pensi ad esempio nel fitness. Noi abbiamo un sacco di sensori ormai, i sensori di battito cardiaco, i sensori di pedalata da aggiungere alla bici, che parlano con lo smartphone e registrano. Ci dicono delle cose. Che tipo di sensori ci sono nel mozzo e quindi che parlano poi con il nostro smartphone? Ma all'interno del mozzo c'è un sensore di velocità della bicicletta, naturalmente, un sensore di cadenza e un sensore inerziale che permette di ricostruire la potenza che noi inseriamo all'interno della bicicletta, la pendenza che noi stiamo superando e anche le condizioni del manto stradale, quindi se noi stiamo andando su una strada liscia o su una strada che è in pavé piuttosto che. Questo è interessante perché in quanto noi abbiamo un cloud che registra tutti questi dati e poi potremmo in linea di principio dire ai nostri utenti: guarda, quella strada lì ha il pavé perché l'ho misurata, non perché me l'ha detto qualcuno. Quindi diciamo dei dati che non veri, sono dei dati, sì. Dei dati veri. Oggigiorno c'è molto anche nel social, c'è molto il voler essere protagonisti, il voler inserire i dati, però la prova di questi dati spesso e volentieri è un pochettino difficile, tant'è che oggigiorno le grandi aziende in questo campo, si pensi a Google, non si permettono ancora di inserire dei dati per la bicicletta in senso puntuale, né per le qualità del manto stradale, né per la pericolosità piuttosto che. Quindi se capisco, voi producete questo oggetto per chi produce biciclette. Esatto. Quindi produttori di biciclette, che mi hai detto sono già più di 100 quelli che hanno in testa il nostro sistema, sono 112, sì. E quelli che hanno già validato il sistema sono più di 20. Ok, quindi le biciclette si trovano già sul mercato. Sì. Però la parte legata alla sensoristica e alla connettività la gestite voi. Sì, ma è stata una scelta questa. Okay. Noi abbiamo deciso di investire molto in in cloud, e quindi abbiamo sviluppato un applicativo che è un servizio anche per chi produce bici. Sì. Ecco, la parte di sensoristica e di connettività con lo smartphone, con internet, è una parte molto importante anche per la Y Bike di Piaggio, giusto Luca? Un nome che è abbastanza una dichiarazione di intenti della bici. Allora, noi abbiamo fatto una scelta direi un passo ulteriore in questa direzione.

Piaggio è sempre stato un produttore di mobilità leggera sostenibile, da quando è nata sostanzialmente. In qualche modo questo mondo sta cambiando, si sta evolvendo e Piaggio deve essere lì, no? Deve essere nel cambiamento. Vediamo altre aziende molto ferme e noi cerchiamo invece di muoverci un po' più rapidamente. E l'app che io ho, perché tu ci hai parlato di questo cruscotto che è una sorta di smartphone che è integrato nella bicicletta, giusto? Proprio c'è un display. Sì, no, io ho entrambe le cose, ho però ho anche l'app sullo smartphone. Sì, ho due cose, ho il cruscotto tradizionale perché chiaramente i nostri volumi, il nostro target è un'azienda come la nostra, non può dire se non ho lo smartphone non funziona la bici, deve essere noi abbiamo un target leggermente diverso e quindi c'è un cruscotto tradizionale che io posso rimuovere e usare soltanto lo smartphone. Lo smartphone è soltanto meglio rispetto al cruscotto tradizionale, fa molte più cose. Che cosa so io? Cosa posso sapere? Che tipo di parametri? Beh, so allora posso sapere intanto l'ottimizzazione, appunto, tutte queste mappature. Quindi io ho una mappatura da città, per cui il motore, ad esempio, dà più contributi in partenza, perché idealmente in città si fa lo stop and go, dal semaforo io parto. Quindi il motore, invece che usare una forza costante, ti aiuta di più nei primissimi metri e poi cala il contributo. Oppure capisce che è in una zona collinare e cambia la mappatura di nuovo, quindi il modo di erogazione di questa assistenza in maniera diversa. E poi naturalmente ho tutte queste impostazioni che le chiamiamo fitness, perché la bici elettrica non è vero che toglie diciamo lo sforzo o l'attività fisica, per noi anzi è fondamentale. Noi abbiamo fatto sì che la bici elettrica permettesse di avere un esercizio e un'attività fisica più gestita, più controllata, proprio come quando faccio in qualche modo è un attrezzo da palestra che ti porta in ufficio. Quindi su questo display io vedo quanti chilometri ho fatto, come ho vedo anche istantaneamente quanta energia sto mettendo io, quanta sta mettendo il motore con due un bel giochino, insomma. Poi torniamo un attimo all'antifurdo, però anche Giovanni, tu mi hai parlato, quando ci siamo sentiti per accordarci su questa trasmissione, mi hai parlato di algoritmi. Quindi anche voi lavorate con gli algoritmi, per farci che cosa? Noi lavoriamo soprattutto con gli algoritmi, noi siamo una technology company, quindi lavoriamo molto su un prodotto e cerchiamo di tirar fuori il massimo di questo prodotto andando a controllarlo nel modo migliore. I nostri algoritmi, principalmente noi abbiamo un algoritmo brevettato di gestione dell'energia, per cui siamo in grado di capire quando il corpo umano ha l'efficienza energetica migliore. Cosa vuol dire? Quando faccio meno fatica per produrre una certa forza sui pedali. In quel caso, facendo meno fatica per mettere la forza sui pedali, io posso ricaricare leggermente la batteria e andare a mettere in banca un po' della mia energia, diciamo, che poi utilizzerò nelle partenze o nelle salite. Questo è una sorta di mappatura. È un aspetto di gestione del motore. Sì, è una sorta di mappatura, come dicevamo prima, con una particolarità, che ha una particolarità che non si deve mai ricaricare e che mi permette di risparmiare fino al 40% di ossigeno a seconda delle mie condizioni. È una sorta di algoritmo di auto ibrida applicato alla bicicletta, in cui l'altro motore siamo noi. E per quanto riguarda il consumatore finale, che tipo di informazioni, di dati gli date? Allora, la nostra applicazione è molto, diciamo, in termini di dati è molto simile a quella di Piaggio, quindi ci dà un'informazione sulla potenza che il motore mi sta dando, la potenza che io sto buttando in batteria e sulla pendenza della strada, chilometri percorsi, statistiche su quello che sto facendo. Mi permette di cambiare le mappature del motore, per cui mi permette di arrivare da questa mappatura ibrida fino a una mappatura più classica da bicicletta pedalata assistita. Ci sono dei livelli e uno di questi livelli lo stiamo rendendo accessibile a tutti, nel senso che ad oggi sono fissati sulla nostra applicativo, ma stiamo lasciandone uno custom, che uno si può giocare, può mettersi lì e farsi la sua mappa e decidere come far funzionare meglio la bicicletta. In più, tramite l'applicativo riusciamo a collegare altri dispositivi smart, ad esempio smart lock, piuttosto che vorremmo arrivare anche a utilizzare anche dei cardiofrequenzimetri, non nell'applicazione da città ma nell'applicazione un pochettino più sportiva che stiamo preparando, da collegare con la, esatto, come ci diceva prima Luca. La nostra differenza è che noi abbiamo un sistema molto più compatto che obiettivamente, come diceva giustamente Luca, dà dei contributi diversi in termini è un altro mondo, un altro mercato. Antifurti, che questo mi sembra un argomento molto importante. Luca, in piaggio come avete risolto? Cioè, c'è il GPS e io so sempre dove si trova. Cioè, tu la bicicletta non la chiudi mai, non la lasci libera? No, beh, allora, è chiaro che una bella... l'elemento catena diventa il deterrente più banale, diciamo, evidente. Cioè, c'è la catena, cosa, quindi ci impiego un po' di c'è più. C'è anche il suo lock, come sempre, sì, sulla ruota, eccetera, eccetera. Ha tutte quelle cosine lì. Però è chiaro che quello, appunto, serve a poco, molto facile da come dire, da cioè, da il lock sarebbe il lucchetto integrato alla bicicletta. Esattamente, c'è anche quello. Perché fortunatamente la maggior parte delle persone, insomma, non hanno o si fermerebbero davanti a anche un minimo di deterrente. E il punto è che se invece, insomma, viene rubata, sì, viene localizzata. Il vantaggio rispetto agli altri sistemi che ci sono adesso di antifurti con SIM, eccetera, è che il nostro è costruito assieme alla bici, quindi come le auto, no? Se io metto un qualcosa dopo, è anche più facile da togliere, perché se è un aftermarket, è un aftermarket anche a toglierlo. Nel nostro caso invece il sistema antifurto è integrato nella bici, se uno lo manomette, certo, la bici non funziona più. Cioè, e non ci dici dov'è? E non, per ora no, ma il punto è che comunque anche se so dov'è, la bici non funziona più, per cui diventa un oggetto del tutto inutile. Quindi è come con gli smartphone. Cioè, io dal mio computer, se mi rubano lo smartphone, posso vedere dove si trova lo smartphone. Esattamente, dalla localizzazione, tra l'altro, insomma, in paesi come la Germania posso fare anche intervenire le forze dell'ordine grazie a questo sistema. Poi noi abbiamo anche previsto degli elementi assicurativi che ovviamente, offrendo un antifurto di questo genere, permette di assicurare la bici. Sì, sì, perché le assicurazioni, mi diceva anche Giovanni, vogliono la localizzazione, il GPS. Esattamente. Integrato. Però voi, Giovanni, avete una soluzione senza GPS. Cioè, come fate? Sì, allora, la nostra soluzione prevede l'utilizzo, appunto, degli smartphone degli utenti che hanno la nostra applicazione. Il nostro applicativo, posto che è un applicativo che si chiama Bitride, non è marchiato Zeus, perché vuole collegare più elementi smart e vuole essere un tool per la mobilità, noi abbiamo predisposto i nostri mozzi per la modalità, diciamo, quando vengono rubati, per avere un sistema di autoblocco, diciamo, della ruota. Noi già la ruota può essere bloccata dallo smartphone, quindi se io mi allontano posso bloccare la ruota, posso decidere di bloccare la ruota in qualsiasi momento io mi allontani, oppure posso decidere di bloccare la ruota secondo una mia azione. Poi il nostro programma, noi abbiamo chiamato semplicemente Safe Bike Program, implica che la nostra bicicletta può essere usata senza smartphone, come è ovvio, perché è una bicicletta che sembra più una bicicletta normale che una bici elettrica, ma io posso impostare quanti chilometri gli lascio fare senza il mio smartphone collegato. Dopodiché la bicicletta si blocca. Questa bicicletta rimane, quando si blocca in safe, rimane attiva con un rate molto più basso per risparmiare batteria e cerca dispositivi Bluetooth che abbiano il nostro applicativo. Naturalmente oggigiorno, non essendoci una community di questi oggetti, questa cosa non funziona in termini di efficienza, ma noi puntiamo ad avere anche degli accordi con altri applicativi così che inseriscano i nostri identificativi delle bici, che sono unici perché sono identificativi di un'antenna Bluetooth, quindi sono unici, e vengono associati al proprietario della bici. Quindi in questo caso la stessa logica dei tracker. È la stessa logica dei tracker, ad esempio. Sì, per chi non lo sa, i tracker sono questi piccoli oggetti che posso mettere, che ne so, nel portachiavi, sono molto piccoli, grandi, grosso modo come le batterie a bottone, e sono Bluetooth e servono per non perdere le cose. Funzionano con questa logica. Volevo concludere con una considerazione sui cambiamenti ai quali stiamo assistendo, che voi state vivendo come aziende. Entrambi mi avete detto che i vostri mercati di riferimento sono il Nord Europa, la Germania, l'Olanda, perché usano la bicicletta più di noi. Però vorrei uno sguardo anche al di là. Tu, Luca, viaggi molto nel mondo, viaggi in un'azienda internazionale. Cosa sta succedendo nel mondo?

ne ha 9 della linea che si chiama Simplify, e secondo l'azienda entro fine 2016 almeno le lavatrici, tutte le lavatrici potranno essere tutte connesse allo smartphone con wifi o con altra tecnologia. Di questo abbiamo parlato, anche per capire le ragioni di questa direzione, abbiamo parlato con Beppe Fumagalli, che è l'amministratore delegato del gruppo Candy. Noi questa decisione l'abbiamo presa già anni fa, quando abbiamo cominciato a sviluppare questi elettrodomestici cosiddetti connettibili. Io uso la parola smart appliances perché è forse quella più semplice e più intuibile, perché già i cellulari sono considerati smart quando hanno tutta una serie di feature al loro interno che sono di questo tipo. Quindi c'è una evoluzione, una rivoluzione all'interno del settore degli elettrodomestici, che è la rivoluzione che c'è nel mondo. Quindi tutte le apparecchiature, a nostro avviso, nel giro di pochi anni diventeranno smart o connettibili, e quindi crediamo che anche gli elettrodomestici all'interno di una casa, che sono elettrodomestici che hanno una forte interazione con le persone, anche questi saranno connettibili. La nostra azienda è un'azienda che per la sua storia, per il suo DNA e per la sua dimensione, quindi quella di un challenger, deve essere per forza più avanti dei suoi concorrenti, ed è per questo motivo che nel 2014 abbiamo cominciato a lanciare una gamma di elettrodomestici con il marchio Candy che è totalmente connettibile. I vantaggi per il consumatore sono, direi, già oggi molto, molto importanti. Se si pensa al fatto che uno possa avere in un attimo una diagnostica del prodotto, quindi un problema di funzionamento del prodotto sul proprio tablet o smartphone, e possa inviarla all'assistenza tecnica, la quale può provvedere immediatamente a fare organizzare la riparazione, oppure a connettersi ad un sito da dove può scaricare delle ricette e metterle direttamente in un forno. Cioè questa, come dire, incredibile flessibilità che c'è nell'informazione, nello scambio dell'informazione, già di per sé chiaramente un aumento delle prestazioni del prodotto rilevantissime. E poi c'è, secondo me, alle porte la casa intelligente, quindi una casa dove tanti device saranno connessi tra di loro e che quindi potranno rendere la vita del consumatore ancora più facile. Però ci sono casi dove è giusto che nel suo funzionamento, per esempio, l'elettrodomestico avvisi il consumatore di quello che avviene a distanza. Pensiamo al caso di un frigorifero che viene lasciato aperto, dove uno può perdere tutto il valore di tutto quello che è al suo interno. Pensiamo ad alla lavatrice che dice: guarda, ho finito, tutto a posto, e mentre io sono in ufficio e lavoro. No, i vantaggi sono, direi, come dire, numerosissimi, e secondo noi di grande valore per l'utente. Senta, le faccio una domanda sull'industria. Voi lavorate con i vostri competitor, cioè esiste non so se addirittura dire un accordo per creare e costruire tecnologie comuni in tutta l'industria? No, non esistono accordi per creare delle cose, delle tecnologie comuni. Però ci sono dei tavoli, in particolare quello del CECED, che è l'organizzazione che riunisce tutti i fabbricanti di elettrodomestici a livello europeo, nel quale si discutono di questi temi, che sono dei temi di trasformazione importanti o di temi dove il prodotto deve seguire delle normative particolari, per cui ci sono delle basi degli intenti comuni. Questo sì, ma non vengono mai decise delle piattaforme tecnologiche comuni, per esempio. Ecco, questo secondo lei potrebbe essere un problema per lo sviluppo di queste tecnologie? Perché se io ho una lavatrice Candy che però non dialoga con la lampadina, ammesso che troviamo il modo, cioè la motivazione per cui devono dialogare, però, che ne so, finisce il lavaggio e si accende la luce, potrebbe essere un'ipotesi. Però se queste due cose non si parlano, questo potrebbe essere un problema. Sì, questo è sicuramente un elemento su cui bisogna riflettere. Come già giustamente ha anticipato lei con la sua domanda, studi su piattaforme comuni se ne stanno facendo e se ne stanno studiando. Però io credo che si andrà verso un mondo estremamente flessibile, dove ci saranno degli elementi esterni che faranno da congiunzione a tutti quegli elettrodomestici, e dove alla fine quello che vincerà sarà la facilità del consumatore. Quindi basterà, secondo me, un'app inventata tra 3 anni e che metterà insieme l'esigenza della lampadina, dell'elettrodomestico e magari dell'allarme di casa, e chi avrà avuto l'intelligenza di fare un'app così di grande facilitazione per il consumatore vincerà a sua volta. La bellezza di questo è proprio il fatto che ci si apre un mondo estremamente flessibile da questo punto di vista. Allora, siamo agli inizi di questo mondo, siamo in una fase in cui è più interessata l'industria o i consumatori? Cioè, voi state facendo queste cose per cominciare a capire quello che succederà, perché credete che nei prossimi anni, così come altre aziende, la Internet of Things sarà una realtà? O secondo lei siamo già entrati in una fase in cui i consumatori, quando vanno a comprare una lavatrice, una lavastoviglie, un frigorifero o un forno, guardano anche se magari si può connettere? Secondo me c'è una porzione limitata di consumatori che oggi intuiscono qual è il vantaggio e che ne traggono un beneficio immediato, ma io credo che questo crescerà ad una velocità vertiginosa. Ma se le dico che, come le ho detto poco fa, se è vero che in Cina sono già state vendute nel 2015 420.000 lavatrici che sono connettibili, secondo me già questo la dice lunga, cioè che da zero a 420.000, ecco, cosa diventerà il 2017, 2 anni dopo, saranno già milioni di elettrodomestici che saranno venduti, quindi questo segmento di popolazione crescerà in maniera molto molto veloce nei prossimi, e quindi vuol dire che loro percepiscono il vantaggio di questa feature. Quindi secondo lei sono consumatori che le hanno cercate, non è che se le sono ritrovate connesse? No, sono comunque elettrodomestici che oggi vengono venduti a un prezzo medio più alto rispetto al prezzo medio del mercato, quindi vuol dire che certamente attribuiscono un valore. Ecco, a proposito di prezzi, queste tecnologie oggi sono solo su modelli di fascia alta. Sarà così almeno per i prossimi anni, o molto velocemente arriveremo a un punto in cui tutti gli elettrodomestici saranno connessi e non si giocherà più sul prezzo? Sì, noi riteniamo che, come l'ho già detto, questa è una vera rivoluzione nel settore degli elettrodomestici. Noi ci prepariamo a che entro 3 anni tutti gli elettrodomestici possano essere connessi, e quindi con un valore di fatto aggiuntivo pari a zero, poco più, per il consumatore. Fra pochi secondi faremo stop al nostro software di registrazione, perché abbiamo concluso anche questa puntata. Per questa settimana ci salutiamo. Vi ricordo l'indirizzo per scriverci: 2024-2024 è radio24.it. A volte c'è qualche ascoltatore che lancia una proposta o anche ci fa una critica, a volte anche giusta, su Twitter, e io dico: scrivimi una bella email così mi spieghi meglio che cosa vuoi dire, perché in 140 caratteri non è che si è capito moltissimo, anche se posso intuire un pochettino, e poi molti mollano lì. Invece io preferisco leggere, leggo tutto, poi non sempre riesco a rispondere a tutti, però ringrazio tutti quelli che ci contattano, mi contattano, perché sono io che leggo quelle email. Dunque ci sentiamo la prossima settimana ci sarà il Mobile World Congress, quindi vedremo se ci saranno novità, a partire anche da alcune applicazioni che magari verranno annunciate sulla eSIM, che sicuramente rischia di essere la novità più interessante. C'è un'altra notizia che ci hanno già dato in anteprima: verrà lanciato un nuovo sistema di connettività che si basa sulla tecnologia LTE ma in frequenza non licenziata, quindi potremmo immaginare che gli apparati che funzionano su queste frequenze potrebbero sostituire il wifi di casa su frequenze non licenziate, quindi andare in competizione di fatto con gli operatori di telefonia mobile che hanno pagato un sacco di soldi per le frequenze della telefonia mobile. Di questo sicuramente parleremo, non so se riusciremo già a farlo la prossima settimana con un esperto, però è un tema molto molto interessante. Ricordate che andiamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30 e siamo sempre in podcast. Fate pubblicità alla nostra trasmissione in podcast, ci risentiamo la prossima settimana. 2024.